Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Stormon Rock. E siamo praticamente a una settimana da quello che sarà l'ultimo concerto, almeno per quanto riguarda l'Italia, dei NoFX. Era un discorso ormai che stiamo parlando da diverso tempo, praticamente un anno e mezzo da quando è uscita effettivamente la notizia che i NoFX sarebbero sciolti. L'anno scorso hanno fatto qualche data qua in Europa, sparsa qua e là, e quest'anno hanno effettivamente tirato fuori un tour completamente europeo, per magari città che l'anno scorso avevano passato, non sono riusciti ad organizzarsi per il meglio. E infatti, come dicevo prima, siamo praticamente a una settimana esatta effettivamente dall'ultima data, senza contare il sabato, che sarà il doppio weekend, 11 e 12 maggio, se adesso non mi ricordo male, dove NoFX suoneranno al Carro Ponte di Milano. Ricordo che biglietti ce ne sono ancora disponibili per la seconda giornata del 12 maggio, di domenica, e per quanto riguarda il sabato, la giornata singola è sold out. Dovrebbero esserci ancora, se non ho visto male, dei biglietti per entrambe le giornate, per il combo ticket, quindi per chi si volesse fare entrambe le giornate. Quindi ultima chance, diciamo, sostanzialmente, per vedervi NoFX. Per chi li ha visti diverse volte e per chi non li ha mai visti, ve li consiglio, perché comunque è sempre uno spasso vederli live. Sto un attimo perdendo tempo, per modo di dire, anche perché è un discorso che volevo leggermente parlare con anche l'artista che ho in intervista in questo momento. Qualche piccola difficoltà, come di consueto, adesso vediamo di risolvere al meglio. Ma intanto, come avevo detto in settimana, precisamente il venerdì, avevo dato la notizia che sarebbe stato Nadir dei Wasei qua con noi, qua con me in compagnia, con l'uscita del suo nuovo album First Session, il suo album, col suo album acustico, sostanzialmente, esatto, senza dove è andato a parlare di diverse cover, quindi ne andremo a parlare con lui adesso, mentre sistemo un attimo questi piccoli problemini tecnici. Intanto andiamo ad ascoltarci effettivamente un nuovo brano dei NoFX, che sono usciti con l'ultimissimo squarcio di album. Dico squarcio sostanzialmente perché sono usciti con il single album, double album, e adesso sono usciti con half album, l'ultimo pezzettino di canzoni che hanno tirato fuori da poter ascoltare. Non c'è nulla di nuovo sostanzialmente da quello che hanno proposto negli album precedenti. E come dicevo, sono riuscito finalmente a ricollegarmi. Questa cazzo di tecnologia che ogni tanto mi mette un attimo in ansia e non riesco a sistemarli troppo bene per essere preciso all'inizio. Certe volte, intanto, purtroppo capita, come avevo detto nella prima parte, mentre mi ero un attimo un po' incespicato perché stavo sistemando anche un altro discorso sul telefono. C'è qui con me collegato su Instagram, e ovviamente per chi non sta seguendo la diretta di Instagram, c'è ovviamente sul radio, potete tranquillamente ascoltarci, c'è Nad dei Wasei, che è uscito con il suo primo album acustico, First Session, di cui andremo a parlarci. Ciao Nad, tutto bene, come stai? Ciao a tutti, tutto a posto, grazie. Oh, com'è? Bene, bene. Come si sta? Se è caldo, finalmente, direi, però per quanto... Anche qui oggi, cioè, caldo qua, no, però c'è il sole quantomeno, però si sta bene, dai, meglio così, questo clima un po' temperato, sembriamo i vecchi proprio. Bravo, l'età bene o male... Un po'. Ci avviciniamo. Esatto, no? Dire, la prima cosa che si chiede è il tempo, poi dopo quello che salta fuori dopo è un'incognita, però prima bisogna parlare del tempo. Hai visto come nuvolo, il sole e gli acciacchini e quant'altro, però comunque di base è quello. Assolutamente. Dico, come dicevi un attimo di corsa, perché anche oggi è lavorare, però infatti mi fa un sacco piacere che tu sia riuscito ad essere qua in tempo, e grazie della disponibilità come al solito, quindi ti ringrazio già di questo. E, ci mancherebbe. E dicevo, avevo un attimo anticipato col discorso del tuo nuovo album, del tuo nuovo album, appunto, acustico First Session, che andremo effettivamente a parlare. Io intanto, ovviamente, per ovviare questo impasse particolare, ovviamente con la tecnologia della diretta di Instagram, avevo fatto partire anche un attimo il prezzo dei NoFX di Half Album. Come dicevo, che siamo praticamente a una settimana dagli ultimi due show che si terranno qui a Milano in Italia per dei NoFX, e so che sicuramente ti ho chiesto, mi ricordo di averti chiesto già cosa sono per te NoFX, ma per tornarci, dato che siamo nella settimana clou, diciamo, ti sembra, parlando dell'album, di Half Album e anche single e double album, ti sembra una giusta chiusura per quanto riguarda la band a livello discografico? Sì. Allora, io devo ammettere che non sono un grandissimo fan degli ultimi dischi, da First Ditch in poi. Allora, però, secondo me i NoFX negli ultimi anni sono diventati un po', diciamo, la manifestazione di Fat Mike, ok? E quindi è giusto che siano così, cioè è il suo modo di esprimersi, e quindi non ho nulla da dire, cioè non è che dico secondo me è così, cioè si vede che sono proprio la sua, sono molto basati sui testi più che sulla musica, e comunque sono dei dischi rispettabili, cioè non ho nulla da criticare, ecco. Ok, sì, io diciamo che brevemente, con quello che hanno tirato fuori negli ultimi album con single, double e half album, riproporre tutti questi brani che comunque avevano già fatto in precedenza, l'ho visto un po' una sorta di marketing della serie, tiriamo fuori qualcosa giusto per dire che abbiamo fatto qualcosa, non che effettivamente ci fosse qualcosa di effettivamente nuovo, perché anche questo half album, ci sono di questi 5-6 brani che hanno fatto, sono pochi brani effettivamente quelli nuovi, ma il resto, la maggior parte, tutte cover c'è un pezzo degli iStandard, un pezzo se non mi ricordo male di Cookie the Clown, quindi hanno rattoppato un po' così, quindi forse i brani nuovi sono riciclato un po' di roba, esatto, quindi sì, certo, l'ho visto, certo. Un attimo così, però vabbè, pazienza, è giusto per parlare. Vai. Half Album non l'ho sentito ancora, ho sentito i singoli, ma non il disco, non l'ho ancora sentito, non ho avuto ancora tempo di sentirlo, di mettermi lì con calma a sentirlo. Ok, va bene. Quindi non posso essere molto obiettivo, i singoli mi piacevano. Ok. No, cioè mi piacevano di più di Double Album, di quelli di Double Album. No, vabbè, ci sta effettivamente. Va bene, anche qui un attimo il discorso di NoFX l'abbiamo fatto, quindi entriamo effettivamente a parlare di questo First Session, di un discorso che avevi già iniziato a parlarmi o nell'intervista precedente o nel pre-intervista della scorsa volta, quando ci siamo incontrati, visti per il discorso dell'uscita del nuovo album dei Wasei. Era un discorso che avevi fatto, ti piaceva fare il discorso di guest di tatuaggi in giro per l'Europa, accompagnato dalla sera magari un live acustico riproponendo cover un po' di Wasei e di band un po' più altre più conosciute, appunto, come NoFX, No Use for a Name e quant'altro. Quindi, da quello che ho capito rispetto all'ultima volta, sei riuscito effettivamente a fare questo? Sì, allora questo è un disco veramente, potrei definirlo circostanziale, nel senso che è un caso, una serie circostanze che si sono verificate, per cui poi dopo è uscito un disco. In realtà io, appunto, come ti dicevo, siccome mi è sempre andando in giro a tatuare e tatuando molte persone della scena punk, e sia ascoltatori che musicisti in Europa, e mi è capitato che mi chiedessero: ma perché non suoni con Wasei? È impossibile, perché mentre io lavoro e tatuo, loro cosa fanno, no? Come fai ad andare in giro con la band? Però magari potrei fare un acustico. Allora lì ho preparato questo set, che poi effettivamente io ho fatto un tour a luglio dell'anno scorso, luglio del 2023, ho fatto un po' di date in Germania, Olanda, belle, sono andate molto bene. E poi dopo, però, molti posti in cui avevo chiesto di suonare, molti promoter, organizzatori mi hanno chiesto una demo. Ma tu cosa fai? Giustamente, perché non sapevano certo. nulla. E allora ho registrato, poi tornato da quel tour, ho registrato dei, proprio ti giuro, come lo vedi nel video, cioè io che suono e canto direttamente, okay. una demo, okay. un demo. E poi sono andato ancora in giro a tatuare e un mio cliente amico, ascoltandolo, che è un, lo conosco perché è un fan dei Guasei, diciamo, e lui gli ho fatto sentire questa demo, mi fa: è bellissima, ma perché non la fai sentire a questi miei amici qua che hanno un'etichetta? E io ho detto, boh, va bene, ok. Non avevo mai pensato neanche di proporla a nessuno, era proprio, ti giuro, la demo personale live. Certo. E questa etichetta era Double Helix, che in realtà non è proprio un'etichetta, diciamo, di alle prime armi, certo. c'è un'etichetta seria, no? C'hanno dei gruppi seri, è molto basata sul cantautorato punk, quindi c'hanno Yotam, degli Useless ID, Jason Devore, degli Authority Zero, c'hanno, come si chiama, Thomas Nicholas, che è un attore di American Pie, che ha una band e fa anche i tour acustici, e che è un po', diciamo, quello più famoso, però è famoso, non è famoso come, capito? Sì. cioè, a livello mondiale, certo. Sì, cioè se lo vedi, tu, a te magari non ti dirà niente, però se lo vedi dici, ah sì, è quello lì di American Pie. Cioè, esatto. E niente, alla fine gli è piaciuto pure a loro sto disco qua e mi hanno detto, bellissimo, facciamo uscire. Beh, è uscito in digitale, non l'hanno stampato, ci mancherebbe che anche... E quindi è andata così, per quello che dico che è una circostanza strana, però sono molto contento perché vuol dire che è piaciuto. Ha funzionato. No, vabbè, dai, come idea molto, molto carina, effettivamente. E spero che riuscirai comunque a riproporla anche in altri ambiti. E che rientriamo in diretta, sono sempre qui collegato con Nado. Ovviamente, se avete qualche domanda, 333 180 94 94 per chi ci sta ascoltando solo in diretta della radio, oppure per chi ci sta seguendo tranquillamente anche su Instagram, però tranquillamente mandare un commento, un saluto o quant'altro, che ovviamente essendo in due bene o male dovremmo riuscire a beccarci. Quindi dicevamo, questo nuovo disco, questa nuova uscita con First Session, una compilation, diciamo, per modo di dire, in chiave acustica, dei pezzi, immagino, che preferiti tuoi, come li hai scelti, le cover principali, le cover dei gruppi e quelle dei Guasei? Allora, io nel mio set live, appunto, c'ho molte più canzoni di così. Okay. Io ho cominciato a suonare, te lo giuro, ho cominciato a suonare, a registrare, e poi quando erano tante che il minutaggio era, ho smesso. Questa è stata la scelta delle canzoni. Ah, ok. Quindi dice, ok, ne so suonare tante, quando arrivo a quelle che mi servono basta, perché sennò facciamo un doppio album, effettivamente. Ma ti ripeto, non era voluto, cioè era proprio adesso registro e metto lì registro, poi dopo ok, adesso finito, basta, fine. E poi così, ovviamente ho fatto magari dal vivo faccio due pezzi dei Semi M, faccio due pezzi dei No Use, eccetera, dei Millencolin, però nel disco invece ne ho fatto uno, cioè quella è l'unica scelta che ho operato, cioè dire ok, solo un pezzo a band, a parte i Guasei, ovviamente. Sì, no, vabbè, giustamente ha senso anche che sponsorizzi di più ovviamente i Guasei piuttosto che le band già conosciute, come hai detto tu, No Use, No FX, Millencolin e quant'altro, perché obiettivamente sì. È giusto anche che riesci a portare acqua al tuo mulino, perché obiettivamente è anche quello un attimo il discorso. Sì, ma in generale Allora, a me, cioè, io suono le canzoni che mi piacciono, no? E quindi anche quelle che mi piacciono di più dei Guasei le ho messe nel disco. Okay. Nei live di solito, siccome io anche in generale, anche con i Guasei, cerco di fare in modo che la gente si diverta ai concerti, no? Non suonare solo per me stesso, un po' intrattenere, quindi penso che comunque l'alternanza, così come anche vedi sul disco, l'alternanza un pezzo dei Guasei che praticamente nessuno conosce e poi una cover ti permette di tenere un po' alta l'attenzione e far sì che le persone l'ascoltino più volentieri e cantino insieme a te. Cioè, io quando suono dal vivo io faccio molto karaoke, cioè tipo spesso e volentieri non mi presento con la scaletta sul palco, ma dico: tu cosa, che gruppo vuoi sentire? E poi gli faccio la cover, capito? Un po' disco richiesta. No, vabbè, ci sta sì. Effettivamente, perché dici, sapendo suonare, avendo un repertorio comunque di cover abbastanza ampio, dici: dimmi una band e poi vediamo se c'ho un pezzo da quella band. No, vabbè, ci sta esatto. Come ragionamento. Ma quindi è un discorso a sé stante, inizia e finisce con questo first session, oppure hai intenzione di proseguire magari anche con pezzi tuoi? Chi lo sa, se poi mi viene l'ispirazione scrivo delle canzoni mie volentieri. Tendenzialmente quello che scrivo io lo scrivo per i Guasei, poi dopo comunque le canzoni dei Guasei sono fatte in modo che cioè, noi siamo molto basati sul songwriting melodico, quindi l'impronta è quella di dire: faccio una canzone bella indipendentemente che sia veloce, lenta, fatta in acustico, reggae, cioè non importa, l'importante è che sia un bel pezzo, certo. Bello da cantare, bello piacione, e quindi quelle che si prestano di più sono state anche trasposte in acustico, quelle che mi piacciono di più, sì, ho trovato proprio una scelta di questo tipo, uguale anche con le cover. Ci sono i miei gruppi preferiti, ma non è che tutte le canzoni si prestano a essere suonate in acustico, quindi ho scelto quelle, mi metto lì, provo a vedere se quella canzone lì che mi piace in elettrico poi può funzionare anche in acustico. Questa è la scelta. Ok, buono a sapersi, quindi vediamo se avrai anche l'ispirazione, come dicevi tu, per avere anche un album tutto solista per quanto tuo, diciamo, effettivamente, piuttosto sì. Che andarsi ad appoggiare con i pezzi dei Guasei oppure effettivamente con altre cover, però quindi adesso ti vai. Dico, potrei anche fare second session anche adesso, cioè, perché se, comunque dici, ce li ho i pezzi per fare un'altra sessione però tranquillo. Con calma, nel senso, un disco già mi è andata bene così. Si dice non rischiamo, no vabbè, dalla fine no, rischiare no, però nel senso adesso ho questo disco, ho fatto poche date da quando è uscito, conto di farne, secondo me l'acustico è più da festival all'aperto, quindi anche ancora presto, oppure da inverno a fare il, capito, che tutti cominciano a rientrare nei locali, nei pub, così, nei bar e si fa... E si ascolta un po' di punk acustico, ecco, questa è secondo me la cosa. Quindi adesso sono un attimo fermo perché siamo appunto, sono impegnato in altre cose della musica, ma tornerò a suonare dal vivo comunque. L'idea, cioè, allora, il presupposto è quello di suonare dal vivo. Il disco, te l'ho detto, è stato un caso, però verrà un secondo sicuramente, con pezzi miei, boh, ma magari sì, non so. No, vabbè, dai, ci sta, magari uno inizia come quando inizi una band, no? Inizi a suonare inizi a fare le prove con le cover, ovviamente, che ti piacciono, poi dici piano piano, dici, boh, sai cosa, quasi provo a buttare qualcosa di mio piuttosto che continuare a fare cover e salta fuori il disco, però vediamo come riuscirai un attimo a gestirla e a gestire anche questa, diciamo, questo second session, perché tanto alla fine ti sei messo fuori un titolo di un album che te lo puoi portare avanti per quanto ti pare, e quindi direi che te la puoi gestire molto molto bene. A chiusura è vero, sì. Seconda parte delle Storm Rock, sono sempre qui collegato con Nad dei Wasei. Quindi ho scoperto una cosa quando ci siamo sentiti, ovviamente per organizzarci al meglio per l'intervista per oggi, mettendo un attimo da parte il discorso del first session, è saltato fuori il discorso che c'è questo ingresso nei Clover Earth. Ci vuoi spiegare un attimo com'è, se c'è qualche novità riguardo un nuovo album, oppure quando riuscirai a entrare effettivamente nella band, o se sei effettivamente entrato nella band? No, allora, non sono nella band. Ok. Nel senso che la band ha un nucleo di titolari, fra virgolette. Però siccome sono tutti provenienti da diverse parti dell'Europa, spesso e volentieri qualcuno di questi manca. Ok. E in questo caso, appunto, manca il bassista e anche il corna musicista, credo che si dica. E quindi siamo due elementi turnisti, okay, che faranno questo tour inglese di 3 settimane. E niente, non credo che sarà una tantum, nel senso che ci aggiungiamo alla schiera di altri musicisti che collaborano con loro all'occorrenza. Io sono contento perché comunque mi piacciono le canzoni, è una sfida perché non ho mai suonato né ska né folk. Ok. e quindi mi devo mettere a studiare. Vabbè, ci sto. E poi un tour così lungo non l'ho mai fatto. Cazzo, comunque 23 giorni. E tutte date, tutte una dietro l'altra, c'è qualche day off in mezzo? Sì, forse c'è un due day off, ma sì, tre day off. Una roba, non so, molto se. Allora, mi hanno comunicato che ci sarà una pausa, quindi non faremo, cioè erano previste 4-5 date che invece non facciamo, okay, perché per ragioni logistiche, perché dovremmo passare praticamente da Lione in Francia fino a nord dell'Inghilterra, è un casino. Okay. E quindi torniamo a casa, facciamo una pausa di 4 giorni e poi ritorniamo ancora in Inghilterra. Quindi non sono più 23, ma sono tipo 19. Cosa così. Vabbè, comunque sono comunque tante. Ma in quel caso lì non riuscite a tornare a suonare qua in Italia? O è tutto un discorso solo in inglese? No, in Inghilterra e nord della Francia. Cioè sono tipo solo 4 nel nord della Francia e tutto il resto in Inghilterra, perché suoniamo di spalla un gruppo inglese famoso, okay, in Inghilterra, che io non conoscevo, si chiamano Ferocious Dog, ma vanno tanto. Okay. E quindi praticamente il gruppo spalla saranno i Clover Earth. Oh, figo, dai, mi fa piacere, dai. Pensavo che effettivamente, diciamo, entrasse effettivamente come band, come membro ufficiale, però comunque so bene o male che sono tutti sparsi, come un po' come i Ramjacks, sì, alla fine, anche loro sono molto sparsi. Cioè, siamo una barzelletta, c'è l'italiano, c'è l'australiano, c'è il tedesco e poi alla fine si trovano tutti uguali, identico. I Clover Earth sono uguali identici, cioè il cantante Sam, che è australiano, poi c'è il chitarrista Steven, che è americano, che però vive in Germania, e poi c'è, diciamo, la formazione, quella adesso che va in Inghilterra, siamo 3 italiani, batterista di Pesaro, io qua a Brianza, e cornamusicista di Siena. Ok, ah, dai, bene, quindi quando partirà questo tour? Il 17 di maggio da Londra. Ok, vabbè, dai, quindi tra due o tre settimane sarà partito. Vabbè, quindi io auguri, in bocca al lupo comunque anche per questa nuova avventura. E sono quasi a metà della seconda parte del Storm Rock, addirittura di arrivo verso la fine nella puntata, sempre come sempre collegato qui con Nad, come ripetevo, come dicevo prima, 333 180 94 94, se voleste scriverci un messaggio su WhatsApp oppure se voleste mandarci un messaggio sulla diretta Instagram che stiamo avendo effettivamente io e lui dalle Stormo Rock Radio e dal suo account Nad Savarino. E, tornando al discorso del The First Session, mischiato un attimo con i Wasei, qualche data sia da uno che dall'altro ce li hai? Allora, mia da solo no, non ho ancora nessuna data perché appunto con questa cosa di Clover Arts non ho avuto modo di mettermi a cercare date o insomma sbattermi un attimo per questa cosa, quindi non ho nulla in programma, ma conto comunque di fare qualcosa a luglio, agosto, vediamo. Okay. Volevo fare, ti giuro, avrei voluto fare un tour proprio on the road, anche quando non trovavo una data in un locale, suonare in strada e andare fino a Capo Nord. Questa era la mia un'idea. Tipo Buskers più o meno, no? Cioè ti piazzi lì e... Sì, sì, cioè fai non tutte così le date, però nel momento in cui ho un day off faccio quello. Fine. Però appunto diverse cose sono subentrate nel frattempo, appunto questa cosa dei Clover Arts, in più sto aprendo un negozio di tatuaggi mio, e quindi insomma mi sta impiegando molto tempo, ovviamente, perché sto facendo tutto da solo, i lavori eccetera, e perciò non ho avuto tempo. Magari lo farò l'anno prossimo, perché andare fino in Norvegia d'inverno non mi sembra il caso. Esatto, non è il tempo, non è il tempo esatto, è giusto più che altro, però no. E invece con Wasei abbiamo qualche data a luglio, suoneremo a Consonno, che è qui, c'è una città fantasma, non so se ne hai sentito parlare, cioè, no. Era una specie di Las Vegas della Brianza negli anni 70. Urca. E su una cima, su una collina abbastanza alta, ed è disabitata, cioè sono solo delle rovine molto particolari. E ogni anno fanno un evento di skateboard, longboard, che fanno downhill, no? Scendono giù dalla collina. Siccome nessuno sale su quella collina se non per andare a visitare la città disabitata, le strade sono abbastanza libere, quindi chiudono la strada proprio effettivamente e fanno una gara di discesa longboard, e i gruppi suonano su un tornante. È un evento molto carino, molto divertente. Suoneremo lì il 21 giugno. Ma adesso ovviamente te lo faccio da proprio una domanda da ignorante riguardante questo posto qui, ma col fatto che è proprio disabitata, non ci sono problemi di permessi o quant'altro, voi potete effettivamente andare là e fare quello che vi fare questo evento, allora, o dovete chiedere dei permessi? Penso che chiedano, cioè anzi sicuramente chiedono i permessi, perché okay. Chiudono la strada, quindi comunque questa è un'associazione sportiva di skate, di longboard, okay. Quindi è una cosa legale, certo. Ovviamente non volevo mettere il discorso di illegalità. No, la domanda era legittima, non è un rave, no. È un evento sportivo, perché però essendo di skateboard attira ovviamente la musica legata allo skateboard e quant'altro. Dai, figo, bello, sì, molto. Questo. Poi a luglio non è nulla di definitivo, di sicuro, però ci hanno invitato all'Inconsapevole Festival. Ok. Che stanno ancora mettendo su, quindi non posso dare, cioè non ho delle informazioni vere. Vai tranquillo. Weekend del 20 luglio. Ok. E so che ci siamo noi e che ci sono i Beer Bong, okay. Perché li ho visti ieri sera. ok. Sì. E poi appunto tramite i Beer Bong stiamo cercando di organizzare qualcosa inizio luglio dalle loro parti, però anche lì è una cosa un po' fumosa. No, vabbè, dai, l'importante è che ci sia comunque qualcosa in ballo e con calma riuscirai a fare anche anche ad agosto suoniamo. Ad agosto suoniamo qua in zona il 30 o il 31 agosto alla Festa Rock qua di Nove Drate, vicino qua a casa mia. Per caso, e suoniamo con i The Rozzer. Ok, dai, figo, dai, mi fa piacere che avete comunque qualche data qua e là, e spero che comunque se ne aggiungano altre nel mentre. Sono gli sgoccioli, come dicevo qualche minuto fa, di questa puntata, di questa intervista, anche con Nade, che è qui con me collegato da un'oretta. Stiamo parlando anche di questo Sbanda Brianza, che sembra molto interessante. Nel mentre, avendoti chiesto un attimo il discorso dei permessi per quanto riguarda questo evento che viene fatto dalle tue parti, diciamo, mi è venuto in mente anche un discorso per quanto riguarda le cover che hai fatto tu, non tanto come le hai scelte, perché le hai scelte, ma giusto per un discorso di diritti, perché solitamente ci sono un po' queste pippe dietro, no? Nel senso, come l'hai dovuto gestire quel discorso? Non è uscito in modo fisico, come dicevi tu, è solo in digitale, però hai avuto problemi? Allora, in realtà non ci sono grandi problemi nel pubblicare una cover sulle piattaforme, nel senso che tipo YouTube la legge automaticamente, tu gli dici guarda il brano non è mio, e poi elargirà i diritti a chi. Invece, per evitare problemi legali, Apple Music, Spotify, eccetera, cioè tu non è che non la puoi pubblicare una cover, perché in realtà è come quando tu pubblichi, cioè la pubblichi su un supporto fisico una cover, cioè comunque la SIAE legge che quella lì è una cover e automaticamente è la SIAE a ripartire i diritti d'autore all'autore, cioè tu non c'entri nulla. Perfetto. Però siccome le piattaforme vogliono tutelarsi in una certa maniera, perché tu in realtà in teoria dovresti chiedere il permesso all'autore per farlo, e se invece non glielo chiedi e la pubblichi lo stesso, lui ti potrebbe dire no, non la puoi pubblicare. YouTube ad esempio te la lascia pubblicare, poi se quello dice no, la devi togliere, YouTube la toglie. Probabilmente le piattaforme tipo Spotify, Deezer, eccetera, non vogliono cazzi, non vogliono problemi, e allora cosa fanno? Ti fanno pagare prima. Così almeno, sì, tu paghi un tot, cioè non è che paghi Spotify, paghi i distributori musicali, no? Tipo, come si chiama? DistroKid, Orchard, hai presente, sì, no? Sì, cioè sì, quelli sì, che curano le edizioni digitali e che poi pubblicano su Spotify, Apple Music, eccetera. Per non avere problemi con le piattaforme di streaming, questi distributori ti chiedono dei soldi e sono più o meno tra i 10 e i 12 dollari a canzone. Io ti giuro che quando ho registrato e poi mi ero informato per pubblicarlo per i fatti miei, ho detto che cosa? 10 dollari a canzone, pubblico solo quelle dei Wasei. E dici tanto sono mie, quindi... No, lì non posso, cioè quelle sono mie, quindi non... E invece poi è tipo una settimana dopo mi hanno scritto quelli dell'etichetta che volevano pubblicarlo loro, e allora ho detto vabbè, allora ci pensano, palla voi. Ok, no vabbè, da giusto, perché sono quelle robe che non so mai come funzionano, quindi la curiosità ovviamente mi salta fuori e chiedo ad qualche esempio, delucidazione. Ecco, ad esempio Bandcamp vieta le cover, non puoi mettere le cover. Infatti se guardi su Bandcamp, sul mio Bandcamp, non ci sono le cover, ci sono solo quelle dei Wasei. È vero. Vabbè, ci sta. Dipende dalle policy di ogni... Ad esempio, ci sono alcuni che dicono gli artisti, cioè i pezzi registrati negli Stati Uniti o in India forse, perché hanno un regolamento di diritto d'autore diverso, non possono essere pubblicati senza avere il permesso dell'autore. Invece quelli, cioè ad esempio adesso Root Note mi faceva pubblicare Millencolin, ma non in OFX. Ah, quindi dopo c'erano tutte queste scaramucce, diciamo, da io posso sì. fartelo, tu no. E, ah, ok. Vabbè, comunque è un discorso. Ogni nazione ha la sua legislazione di diritto d'autore, che sono più o meno simili, però in alcuni casi ci sono dei cavilli per cui, per non avere problemi, i distributori digitali mettono dei veti, mettono delle. Ok. Va bene, buono a sapersi, mi ha fatto piacere. Io sono, come dicevo prima, sono effettivamente arrivato addirittura d'arrivo per quanto riguarda la puntata. Andrò a chiudere come con un pezzo che mi hai mandato tu, che è la combo Linoleum e Livitalone. Se la facevi per tempo, sicuramente potevi entrare anche tu nel video di Linoleum, quello che avevano fatto tempo fa. Però vabbè, comunque il tributo è doveroso, diciamo. E quindi io, come dicevo prima, ti saluto, ti ringrazio ancora e spero di vederti al presto o col tuo progetto acustico o con i Wasei. Quindi te li saluto e alla prossima. Ma tu, dimmi, sabato ci sei? Sabato è NoFX? Sì. Ci vediamo sabato allora ci vediamo sabato, esatto. Grazie. Ciao Danilo. Ciao, come dicevo ciao prima a tutti gli ascoltatori. Dimmi. No, ho detto ciao a tutti gli ascoltatori. Ok. Ah, giusto. Buona domenica e buon pancroc a tutti.